12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. In questa puntata approfondiremo la figura professionale del cuoco, cercando di scoprire di cosa si occupa esattamente e come un giovane possa intraprendere questo tipo di carriera professionale. Lo faremo insieme a Matteo Vianello, chef del ristorante Wine Bar Beccofino di Mogliano Veneto, che ci racconterà la sua esperienza lavorativa e al quale chiederemo delle dritte per poter intraprendere questa professione. Il lavoro del cuoco è una delle figure professionali che in Veneto trova maggiore popolarità tra i giovani che si apprestano a scegliere un percorso formativo in vista poi di una futura carriera lavorativa. Ci sono infatti ben 133 scuole che offrono percorsi formativi nel settore della ristorazione, a cui si aggiungono anche i corsi universitari come la laurea in scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione dell'Università di Padova, per non dimenticare poi la moltitudine di corsi di cucina ad hoc che su tutto il territorio regionale vengono attivati costantemente. Il Borsino delle professioni della Regione Veneto definisce il cuoco come la figura professionale che è in grado di progettare e realizzare ricette e menù per diverse specialità culinarie, di valorizzare l'immagine del prodotto culinario da presentare e di garantire gli standard di qualità e gusto prefissati utilizzando tecnologie innovative di manipolazione e conservazione degli alimenti. Le attività prevalenti di questa figura professionale riguardano l'ideazione e lo sviluppo di ricette tipiche, la progettazione dei menù, la preparazione delle specialità culinarie e la gestione della loro presentazione dal punto di vista estetico mediante guarnizione e decorazione dei piatti. Le conoscenze che vengono richieste per esercitare la professione del cuoco sono molto diverse e vanno ad esempio dalle tecniche di comunicazione e relazione interpersonale alle tecniche di preparazione e cottura degli alimenti, nonché alla conoscenza del settore enologico. C'è da dire anche che per questo tipo di professione la formazione è continua e costante, e quindi una volta terminato il percorso di studi e intrapresa la carriera lavorativa, bisogna continuare a tenersi aggiornati. La Federazione Italiana dei Cuochi, ente giuridico che rappresenta a livello nazionale questa categoria professionale, infatti punta molto sulla formazione e propone continui corsi di aggiornamento proprio per la necessità di tenersi al passo con le tendenze gastronomiche italiane legate al territorio, ai prodotti conosciuti ma anche a quelli cosiddetti di nicchia, ma soprattutto ai nuovi stili e alle nuove tendenze gastronomiche. Per chi volesse avere un'idea più precisa di cosa viene richiesto alla figura professionale del cuoco e quali sono tutti i percorsi formativi che permettono di accedere a questa tipologia di carriera, può andare al sito www.venetolavoro.it/sopralamediaweb, nel quale si possono trovare appunto informazioni sul sistema dell'istruzione e della formazione del Veneto. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Continuando a parlare della professione del cuoco, andiamo ad approfondire il tema dando il benvenuto al nostro ospite Matteo Vianello, chef del ristorante Beccofino di Mogliano Veneto. Matteo, benvenuto a 12 minuti. Bene. Matteo, oggi il tuo lavoro esattamente in che cosa consiste? Ma il lavoro del cuoco è nella costruzione del menù alla mattina, elaborando tutto il materiale che ci arriva la mattina, che comunque ordiniamo il giorno prima, e da lì partiamo alla produzione, alla lavorazione delle materie prime. Noi nel nostro ristorante facciamo la pasta fresca, dunque impastare pasta, gnocchi e tutti i derivati, e nel costruire vari piatti elaborati naturalmente. Ecco Matteo, proprio in base su questo aspetto, sulla costruzione dei piatti, c'è un ragionamento, non lo so, che si fa magari anche di programmazione settimanale dei menù, o cioè ogni giorno appunto... No. C'è una programmazione, ecco, non so, ci racconti un po' questo aspetto. Sì, nel nostro ristorante cerchiamo di lavorare materie prime che sono in base alla stagione, dunque adesso come adesso stiamo finendo i funghi, sta per cominciare il radicchio, dunque tutti i prodotti autunnali, dunque zucche, castagne e tutti i prodotti stagionali. Ecco, da lì partiamo con le varie lavorazioni. Ok, quindi c'è proprio anche uno studio, ecco, dei vari periodi dell'anno, le stagioni, sì, e quindi i prodotti. Ok. Matteo, qual è stato il tuo percorso formativo? Ma il mio percorso formativo è, stato primo sicuramente di 5 anni che consiglio a tutti i ragazzi d'oggi di farli, perché comunque è sempre un diploma che posso avere un domani. Dopo da lì, grazie alla scuola, hai la fortuna di andare a entrare nei vari ristoranti e da lì comincia il tuo percorso lavorativo. Ecco, quindi già durante la scuola comunque c'è la possibilità di fare esperienze di tipo professionali o comunque lavorative? La scuola ti permette almeno 3 stage in arco di 5 anni, da lì una formazione che comincia a inserirti in questo mondo lavorativo. Ecco Matteo, in riferimento alla scuola, esattamente la qualifica o il diploma che tu hai conseguito, perché hai parlato di 5 anni, qual è? No, diciamo che la scuola albergaria ti fa scegliere se fare 3 anni nella quale tu hai una qualifica di cuoco o hai la possibilità di fare 5 anni che è proprio un diploma. Okay. Un diploma che è proprio un vero diploma con una scuola praticamente normale. Ok, quindi sì. E quindi insomma tu, il tuo consiglio è quello comunque poi di proseguire anche quei 2 anni, quindi di raggiungere appunto il diploma. Secondo me è abbastanza importante, perché i ragazzi come oggi cioè, vogliono finire dopo 3, ma il mio consiglio personale è che facciano tutti i 5 anni, ecco. Benissimo, Matteo, ora prima di continuare il nostro approfondimento sulla professione appunto del cuoco, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, la puntata di oggi è dedicata alla professione del cuoco e abbiamo ospite qui con noi Matteo Vianello, chef del ristorante Beccofino di Mogliano Veneto. Matteo, qual è stata la tua esperienza d'ingresso nel mondo del lavoro, ovvero dagli studi alla tua posizione attuale, qual è stato il percorso? Il mio percorso è stato avere molta fortuna durante gli stage che ti permette di fare la scuola alberghiera, e da lì è cominciato grazie a questi ristoratori che mi hanno richiamato a lavorare, e da lì è cominciato il mio lavoro. Quindi ecco, dalla scuola proprio durante gli stage insomma hai avuto modo di conoscere appunto delle realtà ristorative che poi insomma appunto ti hanno richiamato poi. Esatto. Offrendoti ovviamente posizioni lavorative, ecco. Esatto, sì. Ecco Matteo, per un giovane che si appresta a intraprendere questo tipo di carriera, secondo te quali sono i canali da intraprendere e quali le cose su cui vale la pena puntare? Beh, io il mio consiglio che do personale è di di cominciare ad andare a porta a porta nei vari ristoranti a chiedere se c'è bisogno di manodopera. Chiedergli un consiglio che do è la presenza. Di solito un ristoratore guarda più la presenza che il sapere lavorare o meno. Ok, quindi proprio il modo di presentarsi. Il modo di presentarsi, sì, perché comunque bisogna essere umili, bisogna... E da lì si può imparare a lavorare, nel senso, dopo, uscito dalla scuola alberghiera, che loro ti danno solo una prima infarinatura, dopo sta a te cominciare a imparare o no, a lavorare. Ok, quindi insomma il consiglio è andare proprio di ristorante in ristorante, diciamo quasi, no? A proporsi, esatto. Con in una posizione appunto di umiltà, di voglia di imparare, ma anche insomma di forte motivazione, credo. Sì, ecco Matteo, nella prima parte della puntata abbiamo detto quanto in questa professione bisogna tenersi costantemente aggiornati sulle nuove tendenze gastronomiche. Tu ci confermi questa cosa e secondo te in questo momento magari su cosa vale la pena tenere gli occhi aperti? Beh, secondo me in questo momento bisogna sicuramente conoscere i prodotti e le materie prime che il nostro bel Veneto ci offre. E da lì sicuramente i nuovi macchinari, ci sono dei corsi di aggiornamento, ci sono delle nuove macchine che facilitano molto il nostro lavoro. Ecco, quindi sia appunto l'aspetto appunto dei prodotti proprio dalla materia prima, ma quindi anche l'aspetto innovativo tecnologico. Innovativo, sì, secondo me è molto importante. Benissimo, Matteo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e ovviamente buon lavoro. Grazie, buona giornata. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. In chiusura di questa puntata vi do alcuni appuntamenti dal mondo della ristorazione. Parte a dicembre 2012 il corso Bio and Chef, organizzato dall'Accademia Bio in collaborazione con ENAIP Veneto, che si terrà nel territorio padovano. Il corso si svilupperà in 5 moduli indipendenti dedicati a differenti tipologie di prodotti. Per chi volesse avere maggiori informazioni può collegarsi al sito www.lacostigliola.org/progetti/accademia-bio.htm. A partire da gennaio 2013, l'Ente Bilaterale per il Turismo di Venezia propone una serie di corsi brevi nel settore della ristorazione, tra i quali vi segnalo il chilometro zero, impariamo a valorizzare i prodotti del territorio, il cui obiettivo è quello di rendere i partecipanti in piena autonomia, in grado di preparare dagli antipasti, i primi piatti, i secondi, usando prodotti orticoli DOP e biologici del territorio veneto. Un altro corso che vi segnalo è quello della cucina creativa e cucina fusion, il cui obiettivo è far conoscere ai partecipanti la cucina creativa a base di piatti di carne, pesce e quant'altro, e inoltre verrà sviluppata la cucina fusion, appunto tecnica che propone ai clienti piatti nuovi della cucina italiana mescolati a sapori, tradizioni e tecniche culinarie di paesi diversi. Per informazioni più dettagliate potete visitare il sito www.ebt.ve.it oppure scrivere a info@ebt.ve.it. Il Centro di Formazione Professionale di Lancenigo organizza il corso di conservazione degli alimenti in partenza nel mese di maggio 2013. Il corso ha una durata di 80 ore suddivise tra formazione teorica e attività di laboratorio. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato dalla Regione del Veneto un certificato di frequenza. Per informazioni più dettagliate potete collegarvi al sito formazione.provincia.treviso.it. DF Formazione e Lavoro organizza diversi corsi nel settore ristorazione, tra i quali vi segnalo i corsi di cucina e pasticceria amatoriale. Le prossime edizioni sono previste a gennaio 2013 e le lezioni si terranno a Padova. I corsi prevedono un percorso di 15 ore, articolate in 5 lezioni, tutte dedicate a temi specifici. Per informazioni ed iscrizioni potete visitare il sito www.df.com. Per quanto riguarda il mondo enologico, di cui, come dicevamo all'inizio di questa puntata, il cuoco deve avere una conoscenza di base, vi segnalo i corsi attivati dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier. I prossimi corsi di primo livello partiranno a gennaio 2013 a Mestre. Per informazioni potete visitare il sito www.aisveneto.it. Siamo giunti in chiusura di questa puntata dedicata alla figura professionale del cuoco. Prima di salutarvi, la ormai consueta anticipazione sul prossimo appuntamento, che sarà dedicato al lavoro nel settore informatico. Per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro.